tempo che passi come una ruspa sul mondo e sulla mia pelle, tempo che non mi lasci il tempo di capirsi un bel niente, tempo che non hai pietà, ridi di noi soli imperfetti, affezionati ai nostri oggetti. Per esempio, prima c'era l'aria pulita ed ora, e ora c'è solo smog, ma il tempo se ne frega e va, lui pensa solo a cambiarci l'età, a tempo che non hai pietà per le nostre indecisioni e per tutti i nostri errori. Passi e quel che piaceva non piace più, quel che contava non conta più, ma l'uomo dai appena il tempo di confondersi un po' di più, un tempo che non hai pietà, forse in fondo chi lo sa, lasci tutto come sta. E ridi, ridi, ridi, ridi, voli via, e passi, passi, sento i passi tu nella mia via. Ridi, ridi, ridi, ridi. Che non hai pietà, ridi di noi soli imperfetti, con tutti i nostri difetti. Ma tempo, tempo che sei tutta la mia vita, aiutami ad uccidere il tempo, che non faccio, che non penso, che non sento. Tempo che non è vita, quel tempo che senza pietà, senza sogni, senza gioia, senza forza, senza...